Questa settimana al Cacciatore di Libri parliamo di romanzi che diventano film. Ospite Federico Baccomo, in arte Duchesne, autore di Studio illegale, diventato un film con Fabio Volo. Sono Alessandra Tedesco, vi aspetto con il Cacciatore di Libri sabato alle 21 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.